Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo oggi molto di mercati finanziari, sia sul fronte diamanti, dici che cosa c'entra? Beh, insomma, ci sono varie iniziative su questo, che sul fronte petrolio, e qui c'è notizia di queste ore, nel senso che il petrolio è in rialzo di nuovo a New York, a 50, vicino ai 55 dollari al barile, ha toccato anche un massimo a 55,2 dollari, massimi da luglio. Il Brent è sopra i 61 dollari al barile, e questo è un percorso che si è innescato già da qualche giorno dopo le dichiarazioni dell'Arabia Saudita di voler mantenere i tagli alla produzione oltre il marzo del 2018, quando scadrà l'accordo firmato dai paesi OPEC. Questo nel giorno in cui Wall Street, al di là del lutto, della tragedia che ha colpito ieri sera a New York, era sera in Italia chiaramente, ieri pomeriggio a New York, e quindi l'attentato e il minuto di silenzio osservato a Wall Street, dicevo, al di là di questo, la borsa americana sta guadagnando lo 0,30%, ma la cosa importante è che è arrivata anche sopra i 23.500 punti per la prima volta, adesso ha un po' ritracciato 23.440. Questo per dire che comunque le borse sono complessivamente ben intonate. Già questa mattina Hong Kong aveva chiuso in rialzo dell'1,20 e Tokyo dell'1,80%. L'euro nel frattempo continua a leggermente indebolirsi, è vicino a quota 1,15, siamo a 1,16,16. Per quello che riguarda i singoli titoli, o meglio, Milano guadagna lo 0,90%, Parigi più 0,30%, e invece Francoforte ieri chiusa, oggi recupera più di altre borse, più 90%, Londra invariata. Dicevo, per quello che riguarda i titoli, molto bene Saipem più 5%, e poi Case New Holland Industrial più 2,80%, Estimac Electronics più 2%, Fiat Chrysler più 2%, alle 18 usciranno i dati sulle immatricolazioni auto, Exor la controllante più 1,70% come Mediobanca, Generali più 1,60% come Eni, e Prismian, Moncler più 1,30 come Italgas e Azimut. Di negativo c'è poco oggi, Campari meno 0,90, Luxottica perde mezzo punto come Buzzi, Unicem 0,30, lo cede Biper Banca. Ancora, tra i temi che toccheremo, oltre a quelli già accennati, anche la conclusione della missione italiana del Premier Gentiloni, che dal 30 ottobre praticamente a oggi è stato in visita in India, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Si è parlato molto di export italiano, in particolar modo export nel settore agroalimentare. Ne parleremo più avanti con chi ha partecipato nella seconda ora. Ne parleremo con chi ha partecipato alla missione, perché sono mercati in alcuni casi già un po' esplorati, penso agli Emirati Arabi, ma con enormi potenzialità. Si è parlato anche di dazi per quello che riguarda soprattutto l'India. Tra l'altro faccio notare che nei primi 7 mesi dell'anno le esportazioni italiane in India hanno raggiunto quasi 2 miliardi di euro, più 8%. La voce più importante resta comunque la meccanica, 750 milioni, segue la chimica, 250 milioni. Più distaccato è l'export di bevande alimentari, 30 milioni di euro. Le importazioni sono ben più alte delle nostre esportazioni, ma perché noi importiamo moltissimi prodotti siderurgici dall'India. L'India è il colosso ormai diventato del mondo dell'acciaio, per 780 milioni, e prodotti chimici per 380 milioni. Faremo poi il punto anche sugli altri paesi. L'Arabia Saudita vede comunque un export che vale 2 miliardi e 300 milioni solo nei primi 7 mesi dell'anno, e 2 miliardi è quello che importiamo. Qatar mezzo miliardo nei primi 7 mesi dell'anno di esportazioni, anche qui soprattutto meccanica. Le importazioni valgono un po' di più e sono soprattutto petrolio, così come chiaramente le importazioni dell'Arabia Saudita sono soprattutto petrolio, 1 miliardo e 200 milioni è la quota appartenente al petrolio. Dicevo, di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, e la diretta oggi non c'è perché parte, diciamo, della radio è chiaramente in vacanza, o meglio in festività, e quindi oggi non vi sarà la diretta su Facebook. Penso che uno possa anche farsene una ragione, ma vi è appunto, vi sono sia gli sms che whatsapp al 349-238-6666, che la pagina poi sul sito di Radio 24. Restiamo in tema di mercati, o di criptomercati, di criptovalute, perché ha toccato un nuovo record di Bitcoin, più 5% a $6,416. A alimentare la corsa è l'annuncio del maggior operatore al mondo, che intende introdurre i future legati alla criptovaluta entro la fine dell'anno. Allora, uno può pensarla come vuole, ci sono molti amanti della speculazione, per carità, ma già è una criptovaluta, e quindi è una valuta che non ha, diciamo, un paese dietro né un'area economica dietro. Ha già avuto oscillazioni pesantissime quando la Cina ha compiuto un giro di vite. Per carità, poi sta diventando più che una valuta di scambio, ormai l'abbiamo spiegato molte volte, un investimento speculativo, non ha più le caratteristiche solo di una valuta di scambio. Detto ciò, alcuni ci scrivono: perché non usare Bitcoin? Usateli, dico solo che il future su Bitcoin mi sembra veramente di essere tornati al pre-2007, pre-2008. Poi chi ama il rischio può fare anche il future, la scommessa su dove si posizionerà la criptovaluta da qui a qualche tempo, per carità. Una notizia che arriva dagli Stati Uniti, ma riguarda in parte indirettamente anche noi, nel senso che il New York Times, un giornale che ha dovuto affrontare, come altri quotidiani americani, ma non solo, tutto il mondo della stampa è in grande rivoluzione e per alcuni versi anche in sofferenza sui conti economici. Ma dicevo, il New York Times, che tra i primi ha affrontato una rivoluzione di carattere digitale, da questo punto di vista ha migliorato i conti nel terzo trimestre con una crescita del 6% a $385 milioni, grazie soprattutto all'aumento degli abbonamenti online. L'utile netto è salito a $32 milioni, dai $406 mila dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi da pubblicità si sono attestati a $113 milioni. Ancora per quello che riguarda sempre gli Stati Uniti, il settore privato americano ha creato in ottobre 235.000 posti di lavoro, un dato superiore alle attese, ci si attendeva 200.000 posti di lavoro. Nel primo, e invece qui veniamo alle stime sui costi della Brexit per la Gran Bretagna, nel primo giorno del dopo Brexit potrebbero essere persi 10.000 posti di lavoro nell'industria finanziaria britannica. Non lo diciamo noi, è la Banca d'Inghilterra che lancia l'allarme. Il taglio colpirebbe circa il 2% della forza lavoro nei settori bancario e assicurativo. Il vice governatore della Banca Centrale Britannica, Sam Woods, lo ha stimato in un'audizione al comitato parlamentare. Ha detto che di aver previsto almeno 10.000 perdite di posti di lavoro il primo giorno, e tra gli scenari plausibili, citando la società di consulenza Oliver Wyman, l'eliminazione di 65.000/75.000 posti di lavoro complessivamente nei servizi finanziari in Gran Bretagna. Woods ha comunque precisato che il numero effettivo dipenderà da quante società manterranno i diritti di operare nel resto dell'Unione Europea e dall'eventualità che la Gran Bretagna accetti un accordo di transizione dopo l'uscita ufficiale, che avverrà nel marzo del 2019. E prima di passare al petrolio, veniamo a ancora al tema delle banche italiane, perché dopo le varie dichiarazioni di ieri, in particolar modo quelle del governatore, del confermato Ignazio Visco, la sua prima uscita pubblica, e ne abbiamo parlato lungo ieri, si sono fatte sentire anche le associazioni dei risparmiatori di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che hanno presentato un quadro oggettivamente agghiacciante nel corso di una lunga audizione, quasi 4 ore, davanti alla commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. Hanno evidenziato sistematiche pressioni ad acquistare azioni, violazioni delle normative sui profili di rischio, quindi strumenti venduti anche a chi aveva un livello di istruzione basso o bassissimo, ostacoli alla liquidazione dell'investimento che non si fermavano nemmeno di fronte alla morte del socio, i cui eredi venivano privati del diritto di rimborso delle azioni. I risparmiatori hanno chiesto alla commissione bicamerale chiarezza sulle responsabilità degli organismi di vigilanza interni ed esterni alle banche, un ristoro almeno parziale dei risparmi persi, la valutazione delle responsabilità degli amministratori che si sono succeduti dopo il 2015. I risparmiatori sono stati trasformati illecitamente in debitori delle banche, hanno più volte ripetuto i rappresentanti. E riteniamo ci siano state responsabilità degli organi di controllo sia privati che pubblici, a partire dai sindaci, dalle società di revisione fino alla Banca d'Italia e alla Consob, ha detto il presidente del coordinamento Associazione Banche Popolari Venete Andrea Arman. Un intervento più tempestivo avrebbe sicuramente ridotto i danni, e oggi il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, Pier Ferdinando Casini, nel corso dell'audizione dell'associazione dei risparmiatori di Veneto Banca e Banca Popolare, però la notizia è stata battuta oggi, avrebbe detto: ho inviato la richiesta ai liquidatori di mandare l'elenco dei principali debitori inadempienti con l'indicazione di nomi e importi. Quindi ha chiesto Casini ai liquidatori l'elenco dei grandi debitori nei confronti di queste banche, delle due banche venete, quindi Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Allora, qualcuno mi dice: perché non riconoscete che è merito di Trump se la borsa sale? Sì, che Trump sia ben accolto da Wall Street l'abbiamo detto in tutti i modi possibili, e l'economia americana dà continui segnali di miglioramento, i dati sull'occupazione per esempio che commentavamo la settimana scorsa vanno in quella direzione, e sicuramente Trump non ha ostacolato ed è ben visto da Wall Street. Dire che sia merito di Trump la crescita della borsa sarebbe come dire che è demerito se la borsa cala. Va bene, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Apriamo un primo breve approfondimento sul petrolio, perché insomma nell'ultimo anno il greggio ha fatto più 27%. L'euro si era un po' rafforzato sul dollaro e quindi aveva ridotto l'effetto reale intorno a un 22%, ma c'è un tema anche di carattere politico sul livello del prezzo del petrolio, che appunto non riguarda solo i ricavi ma anche il livello di sostenibilità. Ecco perché i $60 il barile del Brent, che è il petrolio del Mare del Nord, mentre noi spesso citiamo il WTI, che è quello West Texas, dicevo, un petrolio a $60 quanto a Brent è importante non solo, diciamo, come livello numerico, cioè è anche una soglia che gli esperti chiamano di break even, cioè dal momento in cui tu riesci a stare dentro e a ripagarti degli investimenti effettuati. Faccio una velocissima correzione parlando dell'andamento di Fiat. Citavi i dati italiani, chiaramente i dati sono americani perché oggi i dati italiani non sono dovevano uscire ma non usciranno, il rifuso è mio, chiedo venia, sono usciti solo i dati sulle immatricolazioni statunitensi e su quello si muove il titolo, anche su quello si muove il titolo Fiat. Per quello che riguarda invece il petrolio, dicevo, il prezzo del Brent a $60 al barile, se ho ben capito, potrebbe far quadrare i conti pubblici non solo di Kuwait e Qatar, che sono quelli più risparmiosi, cioè dove un prezzo intorno ai $50 è più che sufficiente, ma anche di Iran, Iraq, Emirati Arabi Uniti e persino Algeria, che fino all'anno scorso aveva ancora un break even, cioè aveva bisogno di un petrolio intorno ai $100. Il punto invece di ritorno così sull'investimento è sceso a $63 per quest'anno e a $54 per il 2018. Ecco la variabile, chiamiamola così, anche di carattere geopolitico. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Buonasera Sissi. Buonasera. Una prima curiosità mia, il fatto che il break even, cioè il punto in cui diciamo riesci a sostenere l'investimento e avere un ritorno sull'investimento, si è sceso in molti paesi, al di là di Kuwait e Qatar, che sono tradizionalmente un po' le formiche. È dovuto a che cosa? A un miglioramento, efficientamento degli impianti e che cosa? Beh, guarda, no, nel caso di questi paesi si parla di break-even che fa quadrare i conti pubblici, mm-hmm, in realtà, perché sono quasi tutti i paesi in cui la produzione di petrolio è veramente a basso costo, sono posti dove fai un buco nel deserto e zampilla quasi da solo, per cui si genera spesso un po' di equivoco, perché quando parliamo di compagnie petrolifere ovviamente o di insomma quando parliamo delle nostre Eni, certo, BP, parliamo ovviamente dei costi estrattivi. Quando parliamo di questi paesi, che comunque sono paesi con regimi dirigisti che decidono se aprire o chiudere i rubinetti del petrolio per, in base alle decisioni dell'OPEC, quello che conta davvero sono i prezzi del petrolio, che fanno andare in pareggio i conti dello Stato. Quindi $50, $60 sono per il pareggio dello Stato. Esatto, per cui sono meno dipendenti da prezzi alti le economie di paesi più diversificati rispetto al petrolio, come sono già per esempio il Qatar, e questa convergenza che mi dicevi dipende da due cose. Da una parte sono diventati un po' più attenti nella gestione delle finanze pubbliche, sono stati costretti da due anni e passa, tre anni di crolli del costo del petrolio, a fare i conti anche loro con quotazioni basse e con difficoltà anche nel sostenere spese pubbliche, che spesso poi in questi paesi sono elevatissime, perché devono mantenere miriadi di impiegati statali pagare tra virgolette il consenso pubblico o comprare armamenti, perché sono zone molto calde, insomma per una serie di motivi hanno spese pubbliche molto elevate e prima spendevano come le cicale, hanno imparato a fare un po' più le formichine da un lato. Dall'alto il petrolio, che era sceso fino a $30 e anche meno, se ci ricordiamo un anno fa, all'inizio del 2016, è risalito per loro fortuna, per fortuna anche delle nostre major petrolifere, che infatti stanno avendo di nuovo bilanci molto favorevoli, trovando un punto d'incontro più in basso. Tutto il sistema, quindi sono le compagnie petrolifere ma anche i paesi produttori che si stanno adattando a una nuova banda di prezzo del petrolio, se vogliamo. Sì, come tu ricordavi, complice e conseguenza anche della, così, del tirare la cinghia, se posso usare questa espressione, degli ultimi anni, quando il prezzo del petrolio è stato per anni interi e mesi interi sotto i $50 al barile. Veniamo a che cosa sta innescando questo aumento del greggio. Mi sembra di capire che sia soprattutto l'accordo OPEC e il fatto che sul taglio alla produzione, il fatto che l'Arabia Saudita voglia mantenere questo taglio anche dopo il marzo del 2018, o c'è dell'altro? Beh, questo è stato molto importante per spostare l'umore degli investitori, se vogliamo insomma, dirlo in un certo modo. Insomma, i fondi di investimento stanno scommettendo molto al rialzo su petrolio e soprattutto stanno liquidando le posizioni corte, quindi le scommesse ribassiste, se vogliamo, perché a questo punto, con un endorsement da parte di Putin per la Russia e del principe Mohammed bin Salman per l'Arabia Saudita, a questo punto ormai pare certo che i tagli di produzione continueranno per tutto il 2018, verranno prorogati, se lo dicono i due vertici dei principali produttori. Scommettere contro una prosecuzione dei tagli viene visto come rischioso, ma in generale sono i fondamentali del mercato del petrolio che effettivamente si stanno riequilibrando, per usare un linguaggio alla OPEC. Domanda e offerta stanno tornando in linea, anzi la domanda è di nuovo un po' superiore all'offerta da qualche tempo e quindi le scorte si stanno riducendo. E quindi la previsione a questo punto, sì, però è che insomma adesso si attesti intorno ai 60-61 dollari al barile o vi possono essere ulteriori strappi? C'è una certa vulnerabilità delle quotazioni dovuta proprio anche a queste scommesse rialziste degli hedge fund, dei fondi di investimento. È chiaro che se sono tutti molto esposti al rialzo, se ci fosse una notizia ribassista che poi fa girare improvvisamente il vento, potrebbe esserci un tonfo anche veloce al ribasso. Però la convinzione anche delle banche, che dopo molto tempo in cui erano state caute, le banche e gli analisti si stanno incominciando tutti a rivedere al rialzo le previsioni di prezzo, è cambiato veramente l'approccio e quindi in definitiva il mercato poi segue quelle che sono le indicazioni e l'orientamento dei grandi investitori. E quindi dici staremo a vedere su questo. Tra l'altro ho visto proprio ieri un British Petroleum chiudere il terzo trimestre con utili in crescita del 9% grazie appunto al taglio dei costi, come tu ricordavi, e aumento della produzione. L'utile netto è salito a 1.770 milioni di dollari. Ma tutte sono andate molto bene, sì. Le petrolifere, con i prezzi del petrolio in rialzo, il taglio dei costi che continua, stanno andando tutte molto meglio. Bene, grazie anche a Sissi Bellomo. Dopo il meteo e la pubblicità parleremo sì di borsa, ma anche di quello che sta capitando nel settore diamanti, dove è intervenuto l'antitrust che ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità delle offerte dei diamanti da investimento, e ne parleremo perché la cosa riguarda appunto l'Italia, ma già da tempo il Sole 24 Ore e in particolare Plus 24 avevano messo in evidenza le criticità legate a questo investimento. Ricordo un articolo dello scorso 30 settembre di Nicola Borzi, che sarà nostro ospite. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. :38 minuti. Dunque, scrive un ascoltatore: avete fatto un focus sul petrolio, ma neanche un accenno alla produzione di shale oil. Ne abbiamo parlato decine di volte quando era scattato il braccio di ferro tra Arabia Saudita e produttori di shale oil, piccoli produttori soprattutto americani e statunitensi, l'Arabia Saudita che puntava a buttarli fuori dal mercato, il compianto Leonardo Maugeri che spiegò come la scommessa l'avrebbe persa l'Arabia Saudita, perché i 70 dollari su cui scommetteva valevano solo per alcuni produttori di shale oil, ma in realtà il mercato avrebbe retto anche prezzi più bassi, e come spesso avveniva ebbe ragione Leonardo Maugeri, perché poi l'Arabia Saudita perse la scommessa completamente, tant'è che poi l'abbandonò, cioè la scommessa di buttare talmente giù il prezzo del petrolio da far uscire dalla produzione i nuovi produttori, che spesso appunto sono piccoli soggetti statunitensi. Ma oggi non c'entrava, onestamente il rialzo del prezzo del petrolio si muove, come ha spiegato bene Sissi Bellomo, su altre dinamiche. Prima di arrivare ai diamanti, vedo che qualcuno mi dice ho deciso di denunciare la mia banca. Adesso ci arriviamo. Vorrei fare un commento della borsa di oggi, tutta positiva. Devo dire, i dati americani sulle immatricolazioni sono positivi complessivamente, però non per il gruppo Fiat, dove le vendite sono calate del 13%, tutti i marchi del gruppo. Bene invece Ford più 6% sopra le attese, cala invece General Motors del 2,2%. E tra l'altro poi parleremo anche della nomina del prossimo presidente della Federal Reserve. Ha detto poco fa Trump: domani pomeriggio arriverà l'annuncio, annuncerò il presidente della Fed, giovedì pomeriggio resterete colpiti. E quando lo dice Trump, con massimo rispetto, uno un po' anche più che colpito resta così, in attesa, ecco. Prima la borsa, però, Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, petroliferi, abbiamo appena fatto l'approfondimento, quindi li salto. Saipem più 5,27%, bene anche Eni più 1,30%. Case New Holland, CNH Industrial più 2,5%, Fiat Chrysler più 2,1% ed Exor, la controllante, più 1,5%. Allora, CNH era già andata molto bene ieri dopo i conti trimestrali, aveva alzato i target del 2017 in virtù di un fatturato dei 9 mesi superiore alle stime, e oggi la scommessa un po' del mercato degli analisti è che è quella che possa alzare i target anche del 2018, quindi un nuovo rialzo in borsa importante per il titolo, che ricordiamo appartiene alla Galassia Agnelli. La Galassia Agnelli appartiene anche a Fiat Chrysler, che in attesa dei dati sulle immatricolazioni di domani cresce ancora, supera di nuovo quota 15 euro e guadagna il 2,1%. Infine ST che continua a salire, Sì, il miglior titolo di Piazza Affari, se non mi sbaglio, per il 2017, ha quasi raddoppiato il proprio valore da inizio anno. Oggi il tema erano i conti di Sony, che sono andati decisamente bene. Sony ha chiuso in rialzo dell'11% stamattina a Tokyo e ha trascinato con sé il rialzo tutto il settore high tech, di cui fa parte ST, che ha chiuso a più 1,88%. Altri titoli, Generali più 1,70, Moncler più 1,40 come Mediobanca e Prismian, Leonardo più 1,20 come Italgas e Azimut ed Enel. Negativa un po' Campari, meno 1,20, Buzzi Unice meno 0,70, Luxottica mezzo punto di calo come Mediaset e Banca Mediolanum. Andiamo sui migliori e peggiori in assoluto. Devo dire che oggi c'è notizia anche sul titolo Risanamento, perché ha chiuso un accordo immobiliare con Lendlease, un accordo vincolante che riguarda lo sviluppo di Milano Santa Giulia. Tra l'altro sono previsti ricavi per un potenziale di oltre 2 miliardi di euro per tutta la durata dello sviluppo immobiliare. Insomma, l'accordo è importante anche per la borsa, Ceo. Sì, infatti il Risanamento ha iniziato molto bene la seduta, ha guadagnato anche il 5%, poi qualche realizzo sul finale, ha chiuso in rialzo dell'1,8%. Tu citavi anche il resto del listino, c'è un altro titolo che minore, tra virgolette, che si è messo in evidenza, Banca Carige, che ha guadagnato in chiusura il 2,4%, anche in questo caso durante la seduta, specie in apertura, i rialzi erano molto più corposi. Qui il tema è l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Unipol nel contesto dell'imminente aumento di capitale che dovrà fare Banca Carige per tappare i buchi del proprio bilancio. Allora, migliore in assoluto Assiteca più 13, IMSI più 12,50, Invest più 11,30, il fronte opposto Poligrafici Printing meno 5,16, Il Sole 24 Ore meno 3,70, FOP meno 3,30, Banca Intermobiliare meno 3,20%. Grazie anche a Ceo Condine. Andiamo sul traffico e poi parliamo di diamanti, non come investimenti. Ogni tanto abbiamo parlato di commodities, di materie prime, di minerali, per carità, uno può investire dove vuole, però altra cosa è il modo in cui viene veicolato questo investimento. Lo dico perché prima ho fatto una tirata contro i futures sul Bitcoin, che mi sembra una follia. Già il Bitcoin è criptovaluta, già è usata come valuta di investimento più che di scambio, non si capisce, volete rischiare, ma fare anche il future su dove arriverà il Bitcoin, vabbè, allora facciamoci anche un credit default swap e torniamo bellamente al 2007-2006 come atteggiamento. Però questi sono fatti di ognuno di noi, uno può prendere, decidere di mettere 100 euro e rischiarli, esiste anche il casinò nella vita ed è legale. Altra cosa è che io, diciamo, il modo in cui pubblicizzo o fornisco garanzie fittizie rispetto a un investimento. Io non ti posso dire metti la tua fish sull'otto che guadagni, allo stesso modo non ti posso garantire rendimenti futuri sulla base di rendimenti passati, e questo è un vizietto che ogni tanto non scompare. Ne parliamo dopo il traffico. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Focus Economia. minuti, appena adesso i 48 minuti. Allora, diamanti. L'antitrust ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerte dei diamanti da investimento da parte delle società Intermarket Diamond Business e Diamond Private Investment, anche leggo testualmente, anche attraverso gli istituti di credito con i quali rispettivamente operavano. Unicredit e Banco BPM per Intermarket Diamond Business, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena per Diamond Private Investment. L'ammontare complessivo delle sanzioni decise al termine di due istruttorie è di 15.350.000 euro, 9.350.000 euro complessivi per un caso, quindi 2 milioni per Intermarket Diamond Business, 4 milioni per Unicredit, 3 milioni e 3 per Banco BPM, nell'altro caso per complessivamente 6 milioni, 1 milione per Diamond Private Investment, 3 milioni per Banca Intesa, 2 milioni per il Monte dei Paschi. E devo dire che, non per fare i fighi, ma lo scorso 30 settembre sul Sole 24 Ore, un articolo a firma di Nicola Borzi, già metteva in evidenza le criticità legate a questo investimento, anche perché, intanto saluto e ringrazio Nicola Borzi per averci raggiunto in studio. Buonasera Sebastiano e buonasera agli ascoltatori. Anche perché non sono qualche centinaio, uno può pensare, vabbè, ma chi cavolo se ne frega, qualche centinaio di risparmiatori che ha voluto comprare diamanti. Non sono centinaia, ma sono migliaia. Forse più di 100.000. Forse più di 100.000. Due, che cosa viene contestato? Perché, tornando al ragionamento che facevo prima, io posso anche decidere di speculare sul platino o sul cacao o sul prezzo appunto del caffè, tutte cose si chiamano commodities, cacao e caffè chiaramente. Però qual è il problema in questo caso sui diamanti? Ma il problema in questo caso, secondo l'antitrust, sono le pratiche commerciali, cioè quelle modalità di vendita di queste pietre, di proposta di queste pietre ai risparmiatori, attraverso le quali questo commercio è stato presentato come un investimento, ma soprattutto su questo investimento sono state proposte delle soluzioni di prezzo e delle soluzioni di rivendita della pietra, che poi effettivamente si sono dimostrate fallaci, cioè che erano ingannevoli, gravemente ingannevoli secondo l'antitrust, e che hanno portato decine, forse più di 100.000 persone a sottoscrivere questi contratti. Sì, quindi informazioni fallaci. Cioè, io aggiungo anche una cosa, però ci sono dei mercati che sono tipicamente B2B, cioè tra broker e broker. Voglio dire, se io volessi speculare domani sul platino, sul nickel, sul rame, difficile che io possa comprarmi una tonnellata di rame, a parte che poi non so nemmeno dove cavolo metterla, ma insomma una tonnellata di rame o di nickel o una tonnellata di caffè, per quanto ne beva, insomma, e possa poi rivenderla sul mercato. Cioè puoi fare speculazione finanziaria con i futures, le commodities da sempre vivono sui futures, cioè vado a scommettere dove arriverà il prezzo, devo rimandare in onda una poltrona per due, no, dove arriverà il prezzo del succo d'arancia piuttosto che il prezzo, però è una cosa che fanno gli addetti ai lavori, che conoscono tutti gli elementi. Allora, non è forse di principio già sbagliato aprire un mercato così da addetti ai lavori? Ma in realtà la situazione è ancora peggiore, perché questo veniva presentato come un investimento sicuro, in grado di garantire un accrescimento di valore nel tempo, di proteggere il capitale dall'erosione dell'inflazione. Ma e poi quello che va contestato e che l'antitrust ha messo notevolmente in evidenza anche attraverso una consulenza targata Consob è che non si trattava di un mercato, ma che si trattava di uno schema sostanzialmente piramidale, per cui la rivendita delle pietre, per chi intendeva uscire da questo business, era garantita, come scrive l'antitrust, soltanto in caso di entrata di nuovi soggetti. Ma al di là di questo, zitto, perché allora abbiamo già avuto casi nel passato, penso alle popolari venete di cui parlavamo prima, di un'azione che tu pensi di averla a 62 euro. Se qualcuno te la compra a 62 euro o a 40 euro, se non c'è un compratore, non essendo un mercato liquido, la borsa avrà tutti i difetti del mondo. Però se voi andate a vendere la vostra azione nell'arco di pochi minuti, pochi secondi, un prezzo ve lo fanno. Poi non sarà il prezzo che vuoi tu, ci perderai il 5, il 10%, spero di no, l'1%, ma un prezzo, un compratore lo trovi sempre, è la liquidità del mercato. Il problema delle azioni non quotate delle venete era che non c'era mai un compratore, tu le tue azioni te le tenevi, te le guardavi. Non vorrei che fosse la stessa cosa, mutatis mutandis, anche in un mercato così di nicchia come quello degli diamanti. Secondo l'antitrust ci sono degli elementi che portano in questa direzione. C'è poi da aggiungere la questione del prezzo. I listini che venivano presentati da questi due operatori, pubblicati peraltro in tabelle a pagamento sul nostro giornale, sul Sole 24 Ore, venivano presentate come rilevazioni di mercato. In realtà, come scrive l'antitrust, sia nel caso della IDB che nel caso della DPI, in entrambi i casi si trattava di prezzi prodotti da questi operatori che non avevano a riferimento dei valori di mercato né quelli pubblicati dai principali listini internazionali che sono il Rapaport e IDEX, ma che oltretutto non evidenziavano al loro interno qual era il valore reale della pietra, quali erano i valori commissionali che venivano retrocessi alla banca, qual era il margine per il broker venditore, qual era diciamo il peso della fiscalità, almeno l'IVA pesava il 22%. Io ho ricostruito nella inchiesta che tu hai citato del 30 di settembre i bilanci dagli ultimi 10 anni di entrambi gli operatori. Si vede che il costo del venduto, cioè il valore delle pietre sul valore finale del fatturato al netto dell'IVA, era un terzo, in alcuni casi il 40%, quindi la pietra veniva venduta a 3 o 2 volte e mezzo il valore al quale il broker l'aveva acquistata. Allora, devo rispondere ad alcuni ascoltatori su quanto tu citavi correttamente, sul fatto che questi annunci a pagamento venissero pubblicati sul Sole 24 Ore. Sì, ma lo spiega, guarda, lo spiega direttamente l'antitrust, bisogna prendere le due decisioni. Questi signori cosa facevano? Pubblicavano pubblicità a pagamento sul nostro giornale, ritagliavano la parte dell'annuncio pubblicitario attorno alla tabella, prendevano la tabella, la incollavano su un foglio di carta con sopra la testata del Sole 24 Ore e la pubblicavano sul loro sito, dove si trova tuttora, presentando queste rilevazioni come se fossero le rilevazioni del Sole 24 Ore. Ecco, mi hai cosa che l'antitrust ha sanzionato dicendo, in realtà, come ha scritto lo stesso giornale economico, queste non sono rilevazioni del Sole 24 Ore, sono tabelle di prezzi autoprodotte e spacciate per rilevazioni del Sole 24 Ore. Ecco, allora, io stesso ho scritto all'ufficio legale del Sole 24 Ore più di un anno fa, dicendo fermate queste pubblicazioni perché sono pericolose per i nostri lettori, rischiano di causare un danno legale e reputazionale al nostro giornale. Il nostro ufficio legale ha preso le mie mail e ha bloccato queste pubblicazioni. Questi signori hanno proseguito su altre testate. Ecco, allora, lo dico perché noi avremmo tante colpe, però esistono da sempre gli annunci a pagamento. Chiunque prenda un giornale, c'è scritto, cioè nel riquadro, scritto avviso a pagamento, in cui io dico che Sebastiano Barisone è il più bello, il più figo di tutti, mi pago l'annuncio e posso dire quello che voglio, o che la mia casa vale 4 milioni di euro. Altra cosa è se io spaccio questo annuncio a pagamento con una tecnica anche un po' rurale, come ha appena descritto Nicola Borzi, cioè ritagliando il bordo, lo metto sul prospetto e sul sito, dico guardate queste le quotazioni pubblicate da Sole 24 Ore, che pubblica sì le quotazioni anche delle commodities, ma con i singoli mercati di riferimento, nelle commodities principalmente Chicago, ma non solo. Una cosa è il mercato, una cosa è la borsa, altra cosa è se io dovessi pubblicare il titolo Barisoni, titolo azionario Barisoni, e dire che le quotazioni secondo sono sottodimensionate, sottovalutate del 20%, è una mia pura illazione e la pago e si è scritto avviso a pagamento. Quindi, che poi fosse opportuno o no pubblicarle sul Sole, non c'era niente di come, non c'era nessun reato. Però che si potesse prestare un po' di confusione per via dell'avviso a pagamento pubblicato in un giorno del genere, questa è una valutazione personale e Nicola Borzi no, ma lo sostiene la stessa antitrust. Vi ha già risposto. Però tu non puoi ritagliare un annuncio, una pubblicità e spacciarla come esatto. L'ha detto il Sole 24 Ore. Ma infatti la stessa antitrust stabilisce due cose in queste decisioni. La prima sostanzialmente è che la validità dell'offerta si basava sull'immagine del giornale da cui era tratta, quindi veniva sfruttata la nostra reputazione. E la seconda riguardava le banche. Il fatto che venissero offerti allo sportello metteva in campo la reputazione bancaria e dava un'ulteriore garanzia. Grazie Nicola Borzi. C'è un ascoltatore che mi dice inutile che tu dica non per fare i fighi, continui a bullarti con questa voce finto impostata e con queste musiche pseudo-moderne che mettono tristezza. Senta, già è il primo di novembre, ho capito, la voce è così, non è finto impostata, le musiche non sono pseudo-moderne, sono contemporanee, se le mettono tristezza, vai, vai. GR24. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finfarro, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, no, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Non sei convinto? Eh no, è che due spaghi. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Sì, è vero, vi aspetto il sabato e la domenica a partire dalle 19.15 per un pieno di grande musica in collegamento dal Groove Master Studio per il Soundcheck, tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Yes. La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto, non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Dieci minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Come promesso, dopo esserci occupati anche dei diamanti, ma devo dire, insomma, mi sembra che la ricostruzione fatta da Nicola Borzi non necessiti di altri commenti, anche perché appunto l'inchiesta risale al 30 settembre. Detto questo, andiamo sul fronte invece Federal Reserve, cioè cambiamo radicalmente tema. Perché domani c'è stato appunto un'agenzia battuta poco fa, il presidente Trump conferma che annuncerà il nuovo numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, e ha detto Trump: annuncerò il presidente della Fed giovedì pomeriggio, resterete colpiti. Ecco perché della battuta. Sì, domani sapremo il nome di chi guiderà la Federal Reserve dopo Janet Yellen. Tra l'altro in pole position è l'avvocato Jerome Powell. Le chance per la Yellen di un secondo mandato sono praticamente nulle. Dall'ultima riunione dell'anno, diciamo, il 93% degli analisti si attende, quando lei si congederà pubblicamente, un rialzo dei tassi di interesse. Il mandato scade ufficialmente a febbraio del 2018 e lascia un quadro tutto sommato più che positivo: il PIL in crescita del 3%, fiducia dei consumatori ai massimi dal 2000, tasso di disoccupazione al 4,2%, anche se poi abbiamo detto più volte che la disoccupazione è tornata ai livelli pre-crisi, ma la qualità del lavoro, dei salari, no. Ma questo è un altro fronte. Devo dire che la Federal Reserve, a differenza purtroppo della Banca Centrale Europea, non ha come obiettivo solo l'inflazione, quindi l'ossessione tedesca per l'inflazione, che a questo punto è ossessione anche di Mario Draghi, visto che ce l'ha come obiettivo arrivare al 2%. Negli Stati Uniti la Banca Centrale ha anche un altro obiettivo molto importante, che si chiama occupazione, quindi disoccupazione. Quindi non ha come unico faro il mantenimento della stabilità dei prezzi intorno al 2% e chi se ne frega cosa succede al mercato del lavoro, come da noi. Non che Draghi non sia interessato al mercato del lavoro, ne parla ciclicamente, e l'operazione di QE serviva anche a migliorare il clima economico e permettere anche di far ripartire le assunzioni, ma non ce l'ha come obiettivo nel suo mandato. Ecco perché, se vogliamo, il ruolo della Fed è più politico rispetto a una banca centrale, come la immaginiamo noi, di carattere europeo, perché si occupa anche dell'occupazione. Marco Valsania, del Sole 24 Ore, in collegamento con noi da New York. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Oggi giornata di grande lavoro per te, ahimè, lo dico già da ieri sera per via dell'attentato a New York. Con te invece vorrei parlare di un tema sicuramente più leggero, inteso come non drammatico, ma ugualmente importante. Meno tragico. Sì. E meno tragico, ugualmente importante. Che cosa vuol dire, secondo te, Trump quando dice resterete stupiti, resterete colpiti, che non è così certa la nomina di Jerome Powell? Ma è sempre difficile interpretare le parole di Trump, che cerca di tenere la suspense, diciamo, nel puro stile, diciamo, da reality show, da reality TV, fino all'ultimo. Però, come ricordavi anche tu prima, gli analisti, Wall Street, gli economisti, diciamo, tutti gli osservatori scommettono ormai da alcuni giorni su una scelta sicura a favore di Powell. Sicuramente appare la più logica per Trump, perché Powell rappresenta allo stesso tempo una continuità con una politica monetaria, con una strategia della banca centrale che, come ricordavi, ha avuto nei fatti comunque successo nel sostenere l'economia, nel sostenere i mercati, è un cambiamento che comunque lui vuole rivendicare, perché comunque Powell non è Yellen, Powell è un repubblicano. Powell è credibile come leader della Fed e allo stesso tempo un leader quieto, calmo, che non rischia di fare ombra, diciamo, all'amministrazione. Quindi ecco, la scelta di Powell, se poi si avvererà, appare sicuramente avere una forte logica dalla sua, risolverebbe almeno un problema dell'amministrazione Trump, cioè mantenere una leadership stabile della Federal Reserve, mentre l'amministrazione è ancora in ambasce quando si tratta invece in generale della sua politica economica e in particolare della riforma fiscale, che ancora è in difficoltà e in forse. Ecco, ricordavamo che l'obiettivo della Federal Reserve non è solo la stabilità dei prezzi, ma anche l'aumento dell'occupazione. Però con questi dati mi sembra che il prossimo presidente guarderà più forse all'inflazione e quindi avrà un atteggiamento più di politica monetaria classica, aumentare gradualmente i tassi per ridurre la massa monetaria e tenere sotto controllo l'inflazione, che non il tasso di disoccupazione. Anche se i prezzi negli Stati Uniti restano ben distanti dall'aumento dei prezzi, non è ancora un livello intorno al 2%. Assolutamente, sì, credo che tu abbia indicato correttamente. L'idea, che è già comunque l'idea della Yellen, è quella che la Federal Reserve possa continuare così, con una marcia graduale di normalizzazione della politica monetaria, proprio perché così l'economia continua a dare segni incoraggianti di crescita, l'occupazione anche, pur se, come ricordavi tu, il problema un po' aperto e irrisolto resta poi quello della qualità anche dell'occupazione e quindi dei salari. Però ecco, in un quadro che comunque dovrebbe consentire alla Fed di procedere su una strada di graduale normalizzazione, che verrebbe a questo punto così presa in mano da Powell e così con una missione in sostanziale continuità con quella che è apparsa, diciamo, l'ultima fase della Yellen, che dovrebbe poi concretizzarsi in un rialzo dei tassi adesso, poi alla riunione di dicembre, non oggi, ma appunto alla riunione di dicembre. Ecco, meno chiaro sarebbe forse quello che ci si potrebbe aspettare da una scelta invece del rivale di Powell, cioè John Taylor, che almeno così in teoria potrebbe avere un atteggiamento più aggressivo in termini di strette monetarie, e quantomeno in prospettiva, e così voler ridurre così l'impronta della Fed sull'economia come atteggiamento un po' più così ideologico e accademico. Tra l'altro a proprio inizio mese Powell, il candidato più forte, ha detto che è quasi arrivato il momento di allentare la presa degli stress test che ogni anno la banca centrale svolge sulle banche vigilate. Ricordo che Powell è repubblicano, ma è stato nominato alla banca centrale americana nel 2012 da Barack Obama. Potrebbe essere il primo, questo forse interessa poco, presidente della Federal Reserve senza un titolo di studio PhD in economia. È considerato una colomba, appunto, come tu ricordavi, mentre John Taylor ha la caratteristica di essere di essere più discontinuo rispetto all'atteggiamento molto prudente di questi anni della Federal Reserve. Staremo a vedere domani. Grazie intanto a Marco Valsani in collegamento con noi da New York, e andiamo sul traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Lo scopo di questo mio viaggio è stato innanzitutto quello di rilanciare le nostre relazioni economiche e commerciali con alcuni paesi con i quali da qualche anno avevamo raffreddato i nostri rapporti, penso al continente indiano, paesi che stanno attraversando una fase di rilancio straordinaria come l'Arabia Saudita, paesi come gli Emirati e il Qatar in cui consolidiamo le nostre relazioni. Dobbiamo avere la consapevolezza che l'economia italiana è molto basata sulla capacità di esportare, di essere presente nel mondo, e quindi sfruttare al massimo le potenzialità di questa nostra capacità di essere presenti nel mondo significa anche creare benessere, creare lavoro per le nostre imprese in Italia. E mi auguro che le opportunità nuove che abbiamo aperto in questi 3 giorni, in questi 4 paesi, portino i loro frutti. Così il Premier Paolo Gentiloni, dopo una missione abbastanza veloce, abbastanza lampo, appunto 3 giorni per 4 paesi, dal 30 ottobre al 1 novembre, India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Tra l'altro do rapidamente alcuni dati. Italia e India, nei primi 7 mesi dell'anno le nostre esportazioni hanno fatto più 8%, toccando quasi 2 miliardi di euro. Per quello che riguarda Italia e Arabia, l'export sempre nei primi 7 mesi vale 2 miliardi e 300 milioni. Le importazioni valgono 2 miliardi. Italia, Qatar, esportiamo 520 milioni di euro nei primi 7 mesi dell'anno. Devo dire che la parte del leone la fa la meccanica in tutti questi paesi. In India sono quasi 750 milioni l'export di meccanica, in Arabia sono 850 milioni e in Qatar anche lì 127 milioni. C'è un settore però che sta crescendo molto e di cui si è parlato proprio, ne ha parlato il Premier Gentiloni con i suoi corrispettivi indiani, sauditi, emiratini e del Qatar, che è il settore agroalimentare, perché il giro d'affari non è ancora a livello della meccanica, ma ha segnali di crescita molto interessanti. In India siamo a 30 milioni, per quello che riguarda l'Arabia Saudita 108 milioni, per quello che riguarda il Qatar 18 milioni. E ha seguito questa missione il presidente Federalimentare, che noi ogni tanto usiamo quasi come se fosse un collaboratore, per carità, senza pagarlo, e mi riferisco a Luigi Scordamaglia, che appunto rappresenta Federalimentare, ossia quasi 7.000 imprese del settore. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Appunto, senza pagarlo, ma vorremmo farci raccontare quali accordi e memorandum e principi di accordi siete riusciti a ottenere, anche perché l'India, che chiaramente, non perché l'Arabia Saudita e la penisola arabica non sono importanti, ma era il piatto forte, visto che negli ultimi 5 anni anche le relazioni commerciali con l'India hanno risentito della vicenda che va sotto nome di Enrique Alexia, ossia i due Marò che furono imbarcati sulle petroliere Enrico Alexi e arrestati dalle autorità indiane con l'accusa di aver ucciso, era il 15 febbraio del 2012, due pescatori. E quindi quello è forse il paese in cui si poteva crescere di più. Scordamaglia. Certamente, tra l'altro un primo ministro non andava italiano in India da oltre 10 anni. Vero. Abbiamo trovato un'India profondamente aperta alle aziende italiane, al sistema Italia, un'India che in realtà non era solo la vicenda Marò, ma negli ultimi anni era stata molto chiusa alle importazioni così come alle esportazioni, e che invece adesso sta attraversando un periodo di profondo rilancio e vuole ridiventare protagonista a livello globale sia nelle importazioni, quindi ha un atteggiamento diverso. Sui prodotti agroalimentari hanno un duplice interesse nei nostri confronti, sicuramente quello di aumentare l'importazione dall'Italia ma anche l'esportazione di prodotti alimentari indiani verso l'Italia, ma soprattutto quello di averci partner come filiera nel complesso a questo processo di modernizzazione importante che hanno avviato in India sul loro sistema agroalimentare, perché devono comunque sfamare sempre meglio 1.300.000.000 di persone. Da questo punto di vista, Scordamaglia, è vero che culturalmente il mondo dell'alimentare si muove anche e soprattutto su elementi culturali, mentre la meccanica tu la compri dai migliori fornitori e noi siamo tra i più bravi al mondo nella meccanica di precisione, ma non solo. Beh, quando tu tocchi il tema del cibo, tocchi il tema culturale, delle abitudini. Sappiamo che per esempio un problema nell'ingresso del nostro Made in Italy in Cina è stato dovuto anche al fatto che insomma la cultura è diversa. Non si beve vino, stanno imparando adesso a bere vino, hanno un rapporto diverso con tutto il mondo lattiero caseario. E con l'India avete notato più similitudini, vuoi anche per la lunga colonizzazione britannica? Assolutamente sì, devo dire che c'è limiti culturali veri e propri, non ce ne sono, anche il consumo di vino sta progressivamente crescendo in questo paese, siamo dietro all'Australia e dalla Francia, ma in netto recupero. Hanno però anche in India, e questo l'abbiamo apprezzato, una grande ammirazione per tutto quello che è italiano. Nel food sicuramente, ma anche nel luxury, nei gioielli, nelle auto di alta gamma. E infatti abbiamo appunto avviato un tavolo permanente che è finalizzato ad aumentare le importazioni dei nostri prodotti. Hanno anche un grande bisogno di tecnologia italiana nel settore agroalimentare, perché considerano l'Italia quella che oltre ad essere innovativa e efficiente riesce ad essere sostenibile, e in India oggi c'è un problema di inquinamento, di consumo di risorse, quindi guardano al modello italiano come un modello che è un modello finalizzato a produrre di più e meglio ma con meno. Senta Scordamaglia, c'era un tema, perché me lo ricordo da un Vinitaly di qualche anno fa, 2-3 anni fa, adesso vado a memoria però, forse era qualche anno prima, un tema di dazi però in India, perché insomma c'era stato un atteggiamento anche abbastanza aggressivo sul fronte dazi. C'è un doppio problema, c'è un problema di barriere tariffarie e quindi dazi, e c'è un problema di barriere non tariffarie e quindi interpretazione delle normative tecniche finalizzate a bloccare di fatto le importazioni. Quello che dicevo però è che questi strumenti sono stati esasperati negli ultimi anni per rendere pari a quasi zero, perché lei parlava giustamente di 30 milioni di esportazione in 6 mesi, che sono assolutamente niente per un paese che fa 1.300.000.000 di persone. Quindi hanno volontariamente, con dazi e con normative tecniche, bloccate le importazioni. Oggi, a questo tavolo che abbiamo avviato, si sono detti disponibili a discutere soprattutto delle normative non tecniche, delle barriere non tariffarie, mentre per quanto riguarda i dazi si apre un mondo un po' più ampio, e non è detto che non si avvii anche un accordo, la prima ipotesi di un accordo anche bilaterale India-UE per affrontare in maniera strutturata anche questo aspetto dei dazi. Adesso quale sarà il cosiddetto, per concludere, follow up in pochi secondi? Cioè il tavolo permanente che cosa prevede? Guardi, siamo stati molto fortunati perché tra l'altro col Presidente del Consiglio ci siamo andati 2 giorni prima della principale fiera alimentare indiana, e del fatto che ci sarà lì proprio in questi giorni, nei prossimi giorni, il Vice Ministro Scalfarotto, che quindi potrà di fatto codificare tutti questi diversi aspetti e cominciare a lavorarci uno per uno. Bene, in bocca al lupo non tanto a lei ma a tutte le 7.000 imprese che rappresenta Federalimentare. Grazie anche al Presidente Luigi Scordamaglia, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di una buona serata a tutti voi in ascolto. Radio 24, libera la voglia di fare.